stata dolenta, volger l'incerto pietore, e non sai, sulla punta di strada, vedo imminente già la morte al bimbo, e ne flessibile preghi il padre io trovo. Ah, disperata io sono, Ottimo, se ne viene di genitore, e se ho tratto via nell'infelice fraccatino. All'imminente scena, spettatrice appunto io ben volea. Padre Romano, il so, questo mancava tu capunga con te la tua fiezza, ma questa cioè per poco. Da ditelo venio, dove tu debba cominciare lo spettacolo funesto, in questo seno, in questo, in felici e disvino, vi è più così, rinforzerai la scena. Datti pace, odorilla, e sostenendo con fortezza illustre il dolor di mia morte, non lasciar che trionfi sul tuo cuore quel che è dovuto a me fiero rigore. Non più timore, a quell'arbore avvinto resti costui, e da più strani estinto. Ah, già che si feroce o me la morte, o a lui la vita agnelli, barbaro genitore, a tuo malgrado farti voglio pentire di tua fiezza. Ma dell'uomo di forse manca la vita, e la morte ovunque sa trovare cuore disperato. Vuoi perduto il mio amore, perdi tuo figlio ancora, padre spietato. Ahimè, ferma te, oddio, soccorretela. Ah, invano, che da morte ci già resto sommersa, a frettar via tiranno la mia strage, onde io possa seguir dell'amor mio l'intrepido orme. Posto costui si svegli e in lui se ne cada la funesta cagion di mie sciagure.